sono il gossip preferito di queste bitch. Vorrei diventare così rich da cagare soldi trash, crack nelle vene, iene nelle ferite, sirene mute quando passa il mostro di zona, zona della city piena di problemi, rimedio le droghe più fighe che questi letti dovrebbero essere sempre un porno, nuovo crocifisso di un dio stronzo, grande donne risveglio di ogni benedetto giorno. Nanco Cody Orsane, profumo di NG, tutte mimetiche, Dario cambia canale, sui programmi con le fighe, smonta piani, crea eccezioni, noi che ci interessa diventare solo ricchi e ricche, Dio ti ha dato un gran bel lavoro, frate, a me un dono con queste fottute liriche. Profumo di NG, tutte mimetiche, Dario cambia canale, su programmi con le fiche, smonta piani, crea eccezioni, noi che ci interessa diventare solo ricchi e ricche, Dio ti ha dato un gran bel lavoro, frate, a me un dono con queste fottute liriche. Il naso brucia di speedball, così mi ha insegnato Marta, sta vita Marta invece mi ha dato un senso dei soldi e passi assurdi, ero fumata, tirata, pippata, sparata, coca in pipetta nella bottiglietta, fatta in casa di fretta, sassi tanto grossi come povera la tasca, bruciati nella cenere della para, noia di una periferia che più che gloria cerca eroina, brown vera, più sclera, usce, fai tornare la merda come nei 90, ogni tossico spera, invece che sta miseria che chiama la sera, la peria non tiene paura di nada, non tiene nada, brucia ste pelle bianche come la pelle delle bitch colombiana, moneta carta sporca di frisci filigrana, sporca come il sangue di chi per faida e debiti di moneta ti lama. Dai concordi, Orchanel, profumo di enci, tutte mimetiche, Dario cambia canale, su programmi con le fiche, smonta piani, crea eccezioni, noi che ci interessa di diventare solo ricchi e ricche, Dio ti ha dato un gran bel lavoro, frate, a me un dono con queste fottute liriche. Dai concordi, Orchanel, profumo di NG, tutte mimetiche, Dario cambia canale, su programmi con le fiche, smonta piani, crea eccezioni, noi che ci interessa di diventare solo ricchi e ricche, Dio ti ha dato un gran bel lavoro, frate, a me un dono con queste fottute liriche. Naso brucia di speedball, così mi ha insegnato Mata, sta vita Mata invece mi ha dato un senso dei soldi e passi assurdi, ero fumata, tirata, pippata, sparata, coca in pipetta nella bottiglietta, fatta in casa in fretta, sassi tanto grossi come povera la tasca bruciata, tra le ceneri della para, noia di una periferia che più gloria, cerca eroina brown vera. Pusher, fai tornare la merda come nei 90, questo ogni tossico spera, invece che sta miseria, la miseria che chiama la sera, la periferia non tiene paura di nada, tiene nada.